Io ti sento forte come il mare che sbatte sulle rocce, non si ferma mai. E travolge i sensi, tagliando gli orizzonti. Ma sotto la mia pelle batte il cuore lontano di un guerriero indiano che prega il cielo e il vento, chiedendo un cambiamento che forse non ci sarà mai. Lungo le verdi praterie aspettano solo che qualcuno pianti un fiore o che no. Vola nel cielo e quando poi spezza il tempo lascia solo un momento, quell'attimo perso, un tuono lontano fa cadere una stella, la speranza più bella, ma non cancella i sogni e non cambia le stagioni. La nostra vita è proprio qui, anche se adesso intorno a te ti sembra inverno e il tuo sole ormai si è spento. Pensa a un ricordo.